Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ho milioni di view ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, mi fa volare. Il funambolo non ha avuto neppure bisogno qui a Sachsenring di fare le sue acrobazie, di accarezzare i limiti. Gli viene tutto naturale. Moto perfetta, pilota perfetto per la Germania. Il caliente Marquez sul rettilineo, Marquez c'è, vince il Gran Premio di Germania, tutti in piedi per Jonas Folger che è secondo con la Yamaha Clienti. Bravo Daniel Pedrosa, anche se non ti abbiamo visto, terzo a 11 secondi e mezzo davanti a Maverick Vinales e a Valentino Rossi, quarto e quinto. Sono contento, un podio è sempre molto importante, è molto difficile di essere sul podio tutte le settimane. Folger non era possibile tenerselo dietro. Sorpresa incredibile perché era molto forte. Io i primi due giri avevo un feeling molto buono, ero attaccatissimo a Mark. Dopo un po' ha passato Folger, ho provato di tenere dietro perché in questa pista si fa spin, però continuavano a essere molto forti sui 21. Io invece sono andato al 22. Oggi non vincere era un punto perso del campionato perché sapeva che in questa pista è sempre andato molto forte. Prima la gara aspettava una bella lotta con Dani, non aspettava Jonas, andava molto forte. Ultimi 5 giri ho spinto un po' di più, ho fatto un'altra volta 21-6 che era molto veloce e alla fine contento. Aveva ragione il nostro Roberto Ungaro venerdì, questa è la pista di Marquez, vincerà Marquez, era la pista di Marquez e ha vinto Marquez. Avete sentito il riassunto del Gran Premio del Sachsenring in Germania, resta però tutto aperto, ci sono 4 piloti in 10 punti, 5 in 26, adesso vi raccontiamo tutto. Prima però vi do tutti i contatti per stare con noi, questa è l'ultima domenica della stagione, poi per quanto riguarda tutti i convocati weekend alla domenica torniamo il 20 agosto quando riparte il campionato, quindi oggi c'è clima estivo. 800 24 00 24 per chiamare, prenotarvi, intervenire in diretta oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp, oppure ancora ci seguite su Twitter, sulla pagina Facebook. Allora Twitter è chiocciola tutti convocati, la pagina Facebook è tutti convocati trattino Radio 24, dove da un paio di ore abbiamo messo le nostre pagelle del calciomercato, quindi del primo mese di calciomercato, quindi vi invito ad andarla a vedere e a mandarci le vostre oppure a chiamarci per darcele. Tanto per dire, Carlo ha dato 8 a Juventus e Napoli, 6 e mezzo al Milan, 4 alla Roma senza voto all'Inter, io ho dato 7 e mezzo all'Inter, 7 a Napoli e Milan, 5 a Juventus e Roma, ma noi siamo qui che aspettiamo le vostre. 800 24 00 24. Adesso però apriamo la aspetta un attimo, perché quel voto alla Roma potrebbe anche scendere visto che è ultima ora Rudiger al Chelsea. Sì, è quasi primo, fatta, domani secondo, ci sarà l'ufficialità. Oggi ultimo appuntamento per tutti i convocati del weekend, della domenica, ma tutti convocati col cavolo che va in ferie, perché vi facciamo compagnia tutta l'estate. Noi non andiamo mai in ferie, nemmeno Claudio Schiattone, nemmeno Roberta Frisani, nemmeno Roberto Ungaro. No, Roberto Ungaro secondo me sì, perché il motomondiale torna il 6 agosto. Roberto. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Eccoci qua. Allora, cosa è successo oggi in 30 secondi al Sachsenring? Noi ci siamo un po' annoiati, è assomigliato, io lo dico, a un Gran Premio di Formula 1. Hai ragione in parte. Comunque cosa avevamo detto? Marquez o vince o fa il botto. E lì era imprendibile. Come ha guidato, ragazzi, è stata una cosa. Lui e la sua Honda, perfetti. Ha provato solo l'idolo di casa, Folger, il debuttante Folger, che aveva il turbo, ragazzi, l'ha persino sorpassato. Unico brivido della gara questo passo, perché per il resto davvero soporifera, hai ragione. Così Marquez si riprende la corona, il re Marquez, ovvero gara e campionato, perché passa davanti. E Vignales, grande, Pedrosa abbiamo sentito, buon terzo. Folger è stato una meteora, però bravo anche lui. Peccato per, vabbè, Vignales, grande rimonta, devo dire, finire quarto non è male, se guardiamo da dove partiva. Valentino ha salvato il salvabile. Disfatta Ducati, perché Petrucci la gomma fallata, anche gli altri due ragazzi molto indietro, e quindi questa Ducati che era davanti in campionato, peccato, perché nelle prove faceva ben sperare sia su asciutto che sia su bagnato, e invece vedi cosa vuol dire quando parliamo anche della Ducati che vince due gare di seguito. È troppo presto per dire è una Ducati da campionato. Sì. Quest'anno è troppo anche se Roberto, perdona, l'impressione è che sia troppo presto per tutti, cioè secondo aveva ragione ieri Valentino Rossi quando ha detto non si capisce niente, una settimana uno va bene col bagnato, la settimana dopo è in crisi, e non è questione di telaio, non è questione di niente, è diventato il campionato delle gomme, non lo so. È il campionato della Michelin, questo hai perfettamente ragione. È un campionato monomarca, ma nel senso della gomma. Sì, sì, è un peccato però questo. Però devo dire che dal punto di vista dello spettacolo, l'abbiamo detto più volte, insomma, è bello non sapere chi potrà essere il dominatore, Da questo punto di vista, sai, ti può aspettare tutti. E quindi, guarda per esempio Zarco oggi, non c'era, e invece il compagno di squadra cosa ha fatto? E a me dispiace molto per la Ducati, perché sembrava sulla retta via e invece vedi basta una gara e niente, cancelli tutto. Adesso è vacanza anche per loro, quindi bagni non troppo, perché il problema per un pilota adesso è non distrarsi troppo, e quindi chi Ibiza, chi in giro, chi, e invece magari chi a riflettere come fare in questo dannato campionato. Peccato anche per Petrucci, Petrucci è partito bene, poi si è perso per strada, ma aveva una gomma fallata questa volta. Visto l'immagine, questa volta non c'entra, poverino, e secondo me lo rivedremo già da Brno, quando riprenderemo sarà lì protagonista di nuovo. E che dire, una pausa meritata per tutti, grande punto di domanda però per il proseguo, vedremo. Tanto Petrucci confermato, questa è stata una bella cosa per l'anno prossimo, rimane lì dov'è, nella sua squadra che è tanto amata e tanto amato lui da loro. Beh, ci mancherebbe, Petrucci si sta guadagnando in pista i galloni. Però sai Giovanni che è iniziato a essere, c'è stato interesse per esempio da parte di Aprilia e di tante altre marche, e quando inizia a essere una pedina interessante il tuo l'ammontare del tuo ingaggio sale. Lui ha saputo rinunciare, perché lo abbiamo sempre detto, è un onesto manovale del manubrio, e non guarda in primis i soldi ma guarda tutto il resto prima, e questa è una bella cosa, gioca a suo favore per il suo carattere come personaggio. Io vorrei chiedere una cosa a Roberto Ungaro, ma abbiamo il traffico, posso? Allora abbiamo il traffico, quindi lo facciamo dopo il traffico, un minuto di pazienza. Io ripeto i numeri, è 800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Siamo qui fino alle 19, motori, vi daremo anche l'aggiornamento poi sulla seconda tappa del Tour de France che si è chiusa da pochi istanti, e poi il pagellone del primo mese di calciomercato che fa discutere. Allora, traffico, torniamo tra un minuto. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti convocati. Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi vento. E non ci penso più, e non ci penso più. Non è che possiamo essere contenti per un quinto posto, perché no, almeno noi speriamo di essere sempre sul podio. Però per come è andato il weekend, per come siamo andati, per come è andata stamattina e per il passo che avevamo, secondo me abbiamo fatto il meglio che si poteva fare. Penso di aver dato tutto, sono contento. Sono 10 punti dalla vetta. Ho perso una posizione in campionato perché Marquez era dietro e adesso è davanti, ma siamo tutti lì, quindi è tutto da giocare. La scelta definitiva la prendo sempre io, quindi mi prendo le colpe. Abbiamo secondo me lavorato al meglio, però purtroppo oggi abbiamo pagato la scelta della gomma. Però c'è anche del positivo di oggi. Purtroppo la posizione è quello, la cosa più negativa, ed è quello che conta. Però mi sentivo abbastanza bene in gara. È logico che dobbiamo recuperare, non vuol dire che siamo i più competitivi, però ci siamo per giocarcela. Questi erano Valentino Rossi e Dovizioso. 800 24 00 24, prenotatevi per intervenire, oppure 349 238 6666 via sms e whatsapp. Noi stiamo prendendo nota in maniera notarile di tutte le pagelle del primo mese di calciomercato che ci state mandando. Carissimo Roberto Ungaro, ti giro un messaggio: non è più fondamentale settare la moto, ma studiare l'asfalto della prossima pista e la mescola delle gomme fornite dalla Michelin. Aspetta, sì. Questo è diventato il moto mondiale quest'anno? Purtroppo sì, perché il delta di utilizzo di temperatura delle gomme, l'abbiamo sempre detto, è molto ridotto, quindi cambia di portati e la moto va in un altro modo e scombustola tutto il setup che avevi studiato. Questo è il problema, tant'è che qui al Sachsen ne hanno portato una gomma in più, ne avevano quattro davanti di scelte e quattro al posteriore, proprio perché non conoscevano la pista e l'asfalto era stato rifatto completamente. E c'è sempre quell'incognita lì, lo abbiamo detto, purtroppo è il campionato Michelin questo, l'importante è che non porti via lo spettacolo. Ma Carlo, dicevi prima, avevi una domanda? Sì, avevo una domanda per te, a parte il fatto che oggi è una giornata meravigliosa per andare in moto, ma questo non c'entra niente, non è questa la domanda. Non in queste due ore, quindi se siete in moto, smontate, ascoltate tutti i convocati weekend, poi alle 19 ripartite, che c'è anche meno traffico. No, sentite le cicale, perché io sono proprio fermo in mezzo a un campo. Senti, potresti evitare, per favore. No, la mia domanda è questa. Ci ascolta anche Marco Lucchinelli, intanto lo saluto. Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio. Ciao. La mia domanda è questa: ho sentito una cosa strana nell'intervista di Valentino Rossi quando gli hanno chiesto del telaio, ma questo è il telaio del 2016 o del 2017? E lui ha detto: no, ma era quello del 2017, ma modificato, perché se venivamo con quello normale del 2017 era un disastro. Me la spieghi questa? Hai visto com'è? Perché c'è un po' di dubbi e di quesiti su queste cose. Infatti Guido Meda gliel'ha fatta la domanda. Però hai visto lui subito come ha voluto un po' zittire la questione, dicendo no, ma questa era la scelta giusta. Sì, ha fatto un po' la supercazzola, però esatto, non ho capito. Avesse avuto quell'altro sarebbe stato veramente un danno pazzesco, irriparabile, così ha detto. Però c'è questo dubbio alla fine. E comunque queste scelte nei piloti spesso sono scelte che vanno bene anche di testa. Dicono psicologicamente che quella è la scelta migliore e il rendimento c'è. Quindi magari non c'è una grandissima differenza tra un telaio e l'altro, però il pilota si convince che quello è meglio. Per esempio Vignales invece non gli piace, il suo compagno di squadra usa ancora quello vecchio. E quindi ti dicevo che la testa fa tanto, hai capito? Ma ho sentito il nome di Marco Lucchinelli. Chiediamo a lui cosa fa la testa di un pilota che non sa fidarsi del telaio, non sa esattamente che cosa, anche perché che cosa trova da una settimana all'altra. Ciao sì. Marco, ciao Roby. E poi so che tu in radio le cose le dici, perché in televisione è più difficile, in radio un po' come la nostra telecronaca. Io penso semplicemente che il telaio nuovo sia un telaio del 2016, perché non c'è niente da inventare. Se gli altri riescono ad andare, non vedo perché anche non tornare indietro. E molte volte tra un telaio e l'altro c'è talmente poco che effettivamente è solo una questione di confidenza che ci prendi tu o io l'ho visto con Doriano Romboni, l'ho visto mille volte, molte volte vedi l'altro pilota, magari ha fatto il tempo e sali su con quella testa e fai il tempo anche tu, che è quello poi lo stimolo di avere due piloti buoni in una squadra, che sono quelli che fanno andare una moto praticamente. È un po' frustrante fare un mondiale così, dove una settimana sei un dio, vai veloce, la settimana dopo fai fatica a stare in pista. Io faccio fatica a capirlo, questo tipo di motociclismo, e mi sembra di non capirci più niente, perché sembra che siano diventati tutti bravi. Una volta a guidare queste moto bisognava avere i coglioni veri. Adesso arriva un esordiente qualsiasi, sale su, sta davanti Folger, a Marquez, ma Folger una volta, Zarco l'altra, un altro, voglio dire... mi sembra che ci sia, non so dove spiegarmelo, ma c'è qualcosa che le rende facile portarle al limite, perché sennò non tutti potrebbero andare così. Un'Aprilia che avrà tre motori in tutto è lì che battaglia con la Ducati, che hanno l'Audi. No, cioè, c'è delle cose che non riesco più a capirle, capito? Non ci capisco più niente, veramente. Ma è più divertente, più bello, più performante o meno? Cioè, non ho capito se è un livellamento verso l'alto o verso il basso. È bello per chi guarda da casa, ma per uno che ha fatto lo sport e che si immagina che può succedere anche a lui, non è molto bello, perché quando tu ti sei messo a posto la tua bella moto, la moto deve andare in tutti i circuiti, più o meno bene, e devi essere tu che, se hai vinto una gara o hai fatto secondo, poi battagli per quelle posizioni lì. Non può esserci dei salti così a elastico, è incredibile. Marco, ti faccio una domanda: tu sei stato responsabile di una squadra corse, se invece del tuo Raymond Roche tu sei responsabile oggi di, di Lorenzo e sei Ducati, cosa faresti? Io porca miseria, cosa farei non te lo so dire oggi, perché oggi ho un'altra testa di quella quando facevo il manager, però di sicuro non gliele manderei a dire, insomma, voglio dire, ma ragazzi, lo tieni o lo lanci Marco, secco, lo tieni o lo lanci? Come lo tengo? Dove lo tengo? Ma io lo so, l'idea, e l'ho detto anche già, che non ci vuole tanto per abituarsi, cioè quando decidi di cambiare moto devi pensare che l'altra moto è un'altra e ti devi abituare tu, non puoi farla uguale alla vecchia, è come cambiare donna e volerla trovare uguale, è difficile che la trovi uguale, ti devi un po' adattare, e quindi io penso che nella moto io la ragiono esattamente uguale. Io quando sono andato via dalla Suzuki, sono andato alla Honda, aveva 3 cilindri non 4. Adesso diranno, ma erano moto che non andavano, erano il meglio che c'era di quei periodi, di quel secolo, nel 1900. E quando sono arrivato, la seconda gara, se non cado a Salisburgo, vinco la gara. Poi mi ha cambiato la carriera con la caduta lì, però mi sono adattato. E io avevo in squadra Spencer, Aslan, Katayama, non è che mi hanno detto, Spencer va troppo, te lo togliamo, no. Noi ti diamo questo, ma tu non devi rompere i coglioni. Quindi Lorenzo è lì e si deve piglia la Ducati e fa il piacere di farla andare un po' più forte di quello, di quello che sta ci sono facendo. Altri piloti, ci sono altri piloti che con la Ducati vanno forte. Hai capito? Non è il primo della Ducati lui. Lui certo. Per guadagnarsi lo stipendio dovrebbe essere il primo delle Ducati che scendono in pista. E basta. Marco, sei della scuola di Schwanz, hai sentito cosa ha detto Iannone? Vai, sì, tanto Iannone ci chiedono, ci chiedono anche perché non dite due cosine su Iannone. Iannone che oggi, diciamo, tra i grandi è quello che si è steso, è caduto a metà gara. Ci sono queste paroline di Schwanz che gli ha detto vai a fare i kart se non sei più capace di far andare una gara. Allora, io l'unica scusante che ho per Iannone, l'unica scusante è che non ha corso da solo. E sviluppare una moto o cercare di farla progredire da solo non è tanto facile. Aver avuto un compagno di squadra magari veloce come te vuol dire stimolarsi uno con l'altro e far funzionare la moto. È la competitività che ti fa questo. E l'unica scusante che ha, però non mi piace sentir parlare male della moto, io non l'ho mai potuto fare. Invece adesso la colpa è della moto, la colpa è delle gomme, ho capito. Ma la colpa è anche di chi la guida un po', ragazzi, non è solo delle gomme. Si potrebbe anche ragionarci per non restare sempre fermi alla moto e alla fidanzata che frequenta il paddock. Ragazzi, vi devo salutare, è stato un piacere. Che meraviglia. Sì, ma poi ragazzi non si può dare la colpa a Belen, o la colpa ce l'avrà qualcun altro. Ma noi mai daremo la colpa a Belen, qui abbiamo aperto un fan club, quindi di che stiamo a dire? Ciao ragazzi! La coppia d'oro ci ha raccontato il moto mondiale per tanti anni. Roberto Ungaro e Marco Lucchinelli, grazie a tutti e due. Vi saluto, ciao a tutti, a presto. Ciao ragazzi. Alla prossima, io mi prendo 5 minuti adesso perché voglio parlare invece con Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che abbiamo pluricitato venerdì in trasmissione e che saluto. Direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Può fare polemica anche con lui. No, eravamo rimasti profondamente colpiti dal pezzo sulla Gazzetta. Lunedì il processo bis a Vettel per i fatti di Baku, se dovessero dargli una forma di squalifica la Ferrari deve ritirare la scuderia. Domani non succederà niente, probabilmente non va nemmeno con gli avvocati, sarà una chiacchierata, sarà una questione di rapporti di forza politici, poi vedremo da qui alla fine del campionato quanto paga quello che ha fatto Vettel a Baku. Secondo me ha sbagliato marcio, ma vedremo. Però quella provocazione di Umberto Zappelloni secondo me merita di essere approfondita. Direttore. Sì, io sono d'accordissimo con te, che Vettel ha sbagliato e le ripercussioni su quello che ha fatto lui potrebbero essere gravi durante tutta la stagione. Domani probabilmente finirà nel nulla, anche perché Todd alla fine lo ha convocato faccia a faccia e forse gli chiederà di andare a fare qualche lezione di scuola guida da qualche parte, nel senso a essere lui a insegnare sicurezza stradale da qualche parte come usano fare adesso quando un pilota viene pulito. Però sarebbe stato assurdo squalificarlo ulteriormente, visto che i commissari avevano tra le loro armi qualsiasi tipo di squalifica. Se i commissari hanno ritenuto che fermarlo per 10 secondi col drive-thru era la pena giusta, finisce lì, non è che poi puoi giudicare, ha perso la gara per quello. Ma poi, ti dico, ci stava anche magari la bandiera nera, perché Giovanni Capuani infatti sostiene fosse stato un Grosjean qualsiasi sarebbe stata bandiera nera, però ha già pagato. E poi parliamoci chiaro, Umberto, cioè domani, ma chi ha il coraggio di dare una martellata a un mondiale che sia l'unico mondiale degli ultimi sei anni che si sta appassionando, ma dal punto di vista politico, Ma assolutamente, sarebbe un autogol clamoroso tirare fuori dalla lotta per una gara un pilota come Vettel in questo momento, e quindi lasciare via libera Hamilton, togliere il duello che sta infiammando e divertendo tutti, perché poi alla fine è vero che abbiamo parlato di questa ruotata, poi ci siamo divertiti tutti come dei matti a Baku domenica scorsa, insomma, quindi sono andati un po' oltre le righe, ma se andiamo a ricordare i grandi mondiali che ci ricordiamo, i grandi campioni che ci ricordiamo, a tutti è capitato di andare oltre le righe. Era proprio il 2 luglio del 79 quando Villeneuve e Arnoux si presero a ruotate a Digione, e ce lo ricordiamo ancora adesso, più di 30 anni dopo, e oggi sarebbero stati squalificati tutti e due, però allora ce li ricordiamo. Sono due Formule 1 diverse. Giovane e Schumacher, insomma, ricordiamoci Senna e Prost. Sì, però nella galleria degli autogol. La differenza è che quelle erano tutte fasi di gara. Qui è stato praticamente a gioco fermo. Quindi è stato un fallo di reazione dopo provocazione, sempre a gioco fermo. No, però nella galleria degli autogol. Io mi chiedo se non vadano inserite anche le parole di arriva bene, adesso non le sentiamo, ma le abbiamo sentite per tutta la settimana, se c'è da decidere si va sempre contro la Ferrari, ci dicano se questo è il Colosseo. Io ho come l'impressione che Todd voglia anche mandare un messaggio, e secondo me la Ferrari farà bene ad ascoltarlo, dicendo attenzione perché a Baku è andata di lusso. Sì, perché diciamo che le scuse di arriva bene sarebbero state più in sintonia con tutto il resto, cioè anche perché Vettel aveva fortemente sbagliato. E se andiamo a vedere un po' quello che stanno scrivendo i nostri amici inglesi sui vari blog e sui vari siti in questo periodo, l'antipatia che sta suscitando la Ferrari è altissima, proprio per gli atteggiamenti del suo ufficio stampa, gli atteggiamenti dello stesso Maurizio arriva bene, molto duro sempre. Quindi la Ferrari deve fare attenzione da questo punto di vista, perché poi tirarsi contro tutto il mondo anglosassone e poi quello tedesco potrebbe poi diventare pesante. Anche perché non siamo nemmeno a metà stagione. Esattamente, stiamo entrando nel clou della stagione. Poi, siccome l'abbiamo detto anche qui da voi tante volte, saranno i dettagli a decidere questo mondiale, ed anche questo alla fine potrà pesare. Comunque domani non succede niente, lo diciamo. Ma non succede. Al massimo un buffetto, però attenzione perché... perché no, credo non sia un caso che Vettel domani debba farsi una gita a Parigi per spiegare cose che sono chiare, per le quali è già stato punito, ma che evidentemente dal punto di vista politico faranno sentire i loro effetti soltanto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Poi noi siamo tutti ferraristi e quindi speriamo tutti che si possano giocare il mondiale Lewis Hamilton e Sebastian Vettel senza che ci siano altre cose in mezzo. Però se tu alla gara numero 8 ti fai prendere dei nervi, magari qualcosa rischi. Grazie a Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie vice direttore della Gazzetta. 800 24 00 24. Ci fermiamo, poi diamo le polveri alle pagelle del calciomercato. Lo facciamo con un grandissimo esperto, Pierpaolo Marino. Lo facciamo anche con i vostri voti a casa. Fa discutere l'8 alla Juve che ha dato Carlo, fa discutere il 5 che ho dato io. Ci sono tanti milanisti arrabbiati, oggi è arrivato Çalhanoğlu, domani firme la firma dopo che avrà finito le visite mediche, vi diamo anche tutti gli aggiornamenti su Donnarumma, insomma stiamo qui fino alle 19, torniamo tra un minuto. Tutti convocati. Convocati. Oggi paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Nella prossima stagione ci saranno uno o due giocatori di Carrara nella Juventus, quindi solo Buffon o Buffon e Bernardeschi? Beh, diciamo che attualmente ce n'è uno che rappresenta Carrara e la Juventus. Se dovessero essere due, è chiaro che io insomma, sarei felicissimo per questa opzione, perché stimo tanto Bernardeschi come, come ragazzo e come, come calciatore. È un ragazzo umile, è un ragazzo che avendo delle grandi doti tecniche, però unisce anche delle doti fisiche da giocatore, diciamo, importante, da giocatore di spessore. Ha la grinta e l'orgoglio di chi vuol arrivare, e quando dico arrivare non significa arrivare a un risultato o a una carriera normale. Arrivare, io intendo arrivare fra, fra i grandi e starci da grande. Vabbè, Bernardeschi è una delle storie che al finale probabilmente già scritto di questo calciomercato che inizia ufficialmente in queste ore, ma in realtà abbiamo visto tantissimo nel primo mese, e proprio per questo vi chiediamo il vostro pagellone 800240024 oppure 349-2386666 SMS WhatsApp oppure ancora Twitter e Facebook. Ci venite a cercare, adesso leggo una sintesi delle vostre risposte. Il nostro pagellone, quello di Carlo: 8 a Juve Napoli, 6 e mezzo al Milan, 4 alla Roma senza voto all'Inter, ma potete aggiungere anche voi le squadre che volete. Io invece ho dato 7 e mezzo all'Inter, 7 a Milan e Napoli, 5 a Juventus e Roma. Adesso chiederemo anche il pagellone a Pierpaolo Marino, che saluto intanto. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao direttore. Buonasera a voi, buonasera. Pagellone del primo mese, quindi non scriveteci come fa Nicola Negro su Twitter: che senso ha dare i voti 25 ore dopo l'apertura del calciomercato? Facciamo finta che non è successo niente a giugno, il Milan ha cambiato squadra, però se volete facciamo finta di niente. Allora, leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati. C'è chi dice che siamo anti-juventini. Io sono anti-juventino perché ho dato 5 alla Juve, come alla Roma che si è venduto tutto. La Juve secondo me merita 5, ma di stima, l'ho detto nel video, perché da qui in poi comincerà, ma non ha ancora lavorato sulla formazione titolare, e in passato a fine giugno l'aveva già fatto. Poi c'è chi chiede il senso di dare 6 e mezzo al Milan e 8 al Napoli. Carlo: sì, 6 e mezzo al Milan perché insomma il giocatore che deve arrivare, fondamentale, non è ancora arrivato. Poi è chiaro, è stato fatto molto alla svelta, un grande mercato. Çalhanoğlu è un gran bel colpo ed è dell'ultimo, però il giocatore fondamentale è Biglia, o un giocatore alla Biglia, puoi far girare tutta la squadra. Certo, è quello. Poi c'è chi chiede perché 8 alla Juve. Ma perché la Juve parte strafavorita, non ha bisogno di grandi rivoluzioni. Però questo è il primo mese di mercato, eh? Ma sì, ma il voto primo mese di mercato, la Juventus è da 8 comunque, punto. Cioè non, è andato via Dani Alves a sorpresa, come abbiamo ripetuto un miliardo di volte, serve, e sei tu il primo a dirlo, serve un centrocampista che ancora non è arrivato. Quindi la Juventus intanto è quella che è, le altre proprio per questo gli ho dato 5 di stima, perché non ha ancora iniziato a fare quelle cose lì. Sentiamo come la pensa Pierpaolo Marino, direttore. Ciao. Ciao, eccoci. Allora, che voti vuoi dare tu? Juventus, Roma, Napoli, Milan, Inter oppure sbizzarrisciti? Mi sembra il primo quadrimestre a scuola. Ma esiste il quadrimestre a scuola, quadrimestre. Non è che non è che le pagelle non le danno a dicembre. Allora, intanto io ho un concetto, che questo sarà uno dei mercati più schioppettanti degli ultimi anni, e quindi diciamo che dall'inizio questo si può vedere, e naturalmente va dato il voto migliore al Milan, perché non ci si aspettava un avvio così, diciamo, aggressivo da parte. Ma solo per la quantità o anche per la qualità? Beh, Kessie non è proprio da buttare via, insomma, è un giocatore giovane, anche prospettico, e che ha dimostrato che in Serie A sa fare la differenza. André Silva è un giocatore che ha le qualità nel futuro per fare bene, e Çalhanoğlu, diciamo, lo conosciamo tutti, insomma. Poi sta arrivando Conti e deve prendere uno tra Biglia, Kalinic e tutto il resto. Se poi rinnova pure Donnarumma, e poi il Milan era la squadra che doveva rifondare, perché certo, chiaro. C'era da cambiare molto. Hai la sensazione anche tu che Montella cambierà modo di giocare? Io penso di sì. Ma come? Io vedo l'albero di Natale, 4-3-2-1. Sì, 4-3-2-1 potrebbe essere. E sicuramente poi bisognerà inquadrare anche il recupero di Bonaventura in tutto questo, insomma, certo, anche chiaro. Se Çalhanoğlu sembra un giocatore che ha più o meno quelle caratteristiche lì, insomma, no, infatti, perché questo è il domandone che faceva prima Giovanni Capuano: cosa pigli il trequartista se normalmente non giochi come trequartista? Allora, però se cambi modulo è evidente. Però voglio chiederti: allora, a meno che non vada su un 4-2-3-1 addirittura. Sì, però il trequartista serve sempre. Il trequartista serve sempre, ad Allegri non gliel'ha mai preso. Comunque, al di là di questo, sei d'accordo però con me che manca in questo mercato scoppiettante del Milan il giocatore fondamentale, che è quello che il leader del centrocampo? Sì, sì, manca, però stanno trattando Biglia. Ho capito, una trattativa con lo Tito andrà avanti fino alle calende greche, fino al 2018. Mancano due mesi, caro. Ho capito, per Paolo, però che senso ha chiedere 20 milioni per un giocatore che il cui contratto, correggetemi se sbaglio, scade l'anno prossimo e che ha 31 anni? Cioè, se vuoi la luna te la vado a prendere, ma... Sì, non ha senso, però è chiaro che a giugno si chiede questo. Poi magari, man mano che ci si avvicina all'epilogo del mercato, le pretese scendono perché ci si rende conto che il giocatore è in prestito per un anno, in pratica non è più di proprietà. Diventa difficile da trattenere. Da grande dirigente, hanno ragione i tifosi della Roma, che sono eufemismo, un po' perplessi, o Pallotta, che oggi è colleghi del Tempo, ha detto: non capisco la sfiducia dei tifosi, basterebbe guardare i giocatori che abbiamo comprato, siamo sicuri di costruire una Roma più forte. Secondo me i tifosi guardano quelli che ha venduto, esatto, Pallotta. Però lo so che questa è una battuta anche facile, anche banale. Noi abbiamo dato 4 e 5 fin qui al mercato della Roma, per Paolo. Ma con la Roma come vendite bisogna mettere 7, sì. come ingressi ancora 5. Ma dipende però qual è l'obiettivo. L'obiettivo, io credo che una squadra come la Roma, che non aveva un'età media esorbitante, è arrivata seconda alle spalle della Juventus, non è che necessitasse di rifondazione, quindi si sono fatte delle operazioni in uscita per fare trading, e naturalmente i tifosi sono perplessi perché rifondare una squadra che è arrivata seconda invece di fare quei ritocchi che servono per colmare il gap per arrivare prima è una cosa che desta perplessità. Poi il calcio ci ha insegnato tutto, perché magari non conosciamo qui bene in Italia Monchi, che è il primo dirigente sportivo che importiamo dall'estero, sì. Magari lui arriva con la bacchetta magica, rifonda una squadra, chiude il bilancio in attivo, rifonda una squadra che è arrivata seconda e arriva pure primo, non lo so, nel calcio può succedere anche questo. Esatto, no, però chiaramente i tifosi non è che ci credono molto, perché quando vedono partire giocatori del calibro di quelli che sono partiti, e arrivano degli ottimi giocatori, perché con Alonso, Moreno sono ottimi giocatori, però dice: perché dovevo cambiare quelli lì e non magari prendere un'altra punta che ne avevo una sola, che avevo sono assolutamente comprensibili. L'altra perplessità, secondo me, è che il discorso del fair play finanziario oramai l'hanno capito tutti, anche i Sassi. Però ad esempio Rudiger viene ceduto dopo, e vedremo che cosa succede. Queste sono scelte tecniche, non sono più legate a esigenze di mercato e di bilancio, che evidentemente avevi sistemato con la cessione di Salah, che dal punto di vista tecnico è una cessione pesantissima. Abbiamo il traffico, io chiedo ancora un minuto di pazienza per Paolo Marino, e poi leggo anche alcuni dei voti che ci state mandando al 349-238-6666. Poi c'è Maurizio da Roma. Allora, a tutti chiedo un minuto di pazienza, torniamo subito. Convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Despacito. Gione ora sta vivendo questo momento, e penso che qualsiasi tipo di consiglio o valutazione non faccia altro che aumentare un disagio, aumentare una confusione della quale Gigi non ce n'ha bisogno. Non hai mai pensato a Donnarumma anche come tuo successore alla Juventus? Se la Juve avesse questo tipo di di opportunità, farebbe un grandissimo acquisto e non sbaglierebbe sicuramente. Però insomma ci sono tante dinamiche, insomma, che vanno tenute. Donnarumma deve fare la cosa che lo fa essere più felice. E domani è un giorno importante per Donnarumma, perché siamo a quel 3 luglio che era stato indicato da Fassone per avere qualche certezza in più. Siamo con Pierpaolo Marino. Allora, leggo alcuni dei voti che avete dato al primo mese di calciomercato. Lo so che il calciomercato ufficialmente è aperto da poco più di 20 ore. Però ragazzi, se vogliamo raccontarci che a giugno non è successo niente, fate pure. Allora, amici che non si firmano, ad oggi Milan 7, Juve Napoli Inter 6 e Roma 4. Un altro ascoltatore via WhatsApp, Milan 10, Roma 7, Juventus e Inter 6 e Napoli 5. Io sul Napoli, Pierpaolo Marino, non sono d'accordo. Assolutamente, perché il Napoli diciamo che sta facendo quei movimenti per il momento che sono di completamento della rosa. Onas è un elemento in questo senso che va ad essere un'alternativa a Insigne o a Calleon, perché Mertens si è spostato a giocare come prima punta e quindi non sono più in tre per due ruoli e quindi necessitava. Sta definendo Mario Rui come terzino e il Napoli ha bisogno di prendere qualcuno, secondo me, in difesa, però diciamo che allo sbarramento del preliminare di Champions per poi... Ma la scelta è stata quella di tenersi migliori. No, ma appunto, è una scelta di investimento. C'è modo e modo, quello che è una roba di prima addirittura. Pierpaolo, c'è modo e modo di fare mercato e anche di valutarlo. Cioè non si può dare una valutazione negativa a un mercato. Che mercato non sono solo giocatori che vanno e che vengono. Sono anche giocatori che si tengono. È anche la forza di tenersi. O di vendere bene, ed è il motivo per cui ad esempio il voto dell'Inter è alto per me, che ha dovuto rientrare nei paletti del fair play finanziario e l'ha fatto senza toccare Perisic. Sì, dicevo, il Napoli ha fatto l'opposto della Roma, cioè pur essendo arrivata terza sta facendo diciamo una rifinitura dell'intelaiatura o della rosa che già era stata costruita in maniera intelligente lo scorso anno, con centrocampisti giovani, con numericamente corposa, e il Napoli sta aggiungendo. La Roma invece toglie e mette, ed è un esercizio difficile per chi vuole confermare un secondo posto oppure migliorarlo addirittura. Il Napoli sta facendo bene sulla strada della crescita progressiva e ha confermato i titolari. Non si sono ripetuti casi come quello di Higuain, che l'anno scorso ha fatto fare un passo indietro al Napoli rispetto all'anno precedente, lo dobbiamo dire, tant'è che è arrivata terza e non seconda, nonostante sia stato il miglior attacco. Pur facendo il record di punti nella storia del Napoli. Perché quando perdi certi giocatori cardine è la squadra che perde proprio le convinzioni. Allora ti capita magari alla prima di campionato di pareggiare a Pescara, quando invece con Higuain in campo erano tutti convinti di fare una passeggiata. Sì, ti perdi quei punti che alla fine pesano. Grazie direttore. Prego, arrivederci. Grazie per Paolo Marino, alla prossima. Allora Maurizio da Roma, dai Maurizio. Ciao, buonasera. Vai. No, sulla fattispecie di Paolo Marino, che parla molto bene del Napoli, scusa, male della Roma. Infatti la Roma prendendo Pellegrini si è indebolita sicuramente al centrocampo. No, certo, ha fatto un grande colpo con Pellegrini. No, che discorso? No, vado avanti un attimo. Certo che il Napoli deve mantenere e anche rafforzarsi, perché se non erro è arrivato dietro alla Roma. Oppure sbaglio? Sì, è arrivato dietro, ma io ho l'impressione che siamo al 2 luglio, lo ripeto per la millesima volta, a oggi siamo al 2 luglio, i rapporti di forza sono invertiti. Poi vediamo il 31 agosto. Appunto, posso dire un'altra cosa? Sì. Se non, voi siete stati inizialmente un po' imprecisi, ma sapendo di esserlo, il mercato apre domani. Va bene, ho capito. Maurizio, ma allora... No. Sì, ma a me no, va bene scusi. Tutto, però non stiamo qui a fare... Perdonami Maurizio, no, noi non stiamo qui a fare i notai. Stiamo qui a fare, e non siamo nemmeno quelli della Lega che devono mettere il bollo. Possiamo dire che il Milan ha fatto 5 colpi, il sesto lo farà domani, l'abbiamo visto oggi e sta facendo le visite mediche, lo possiamo dire, o lo possiamo dire domani pomeriggio? Maurizio. Ma io vado oltre, giochiamo un pochettino con la carte scoperte. La Roma, se è in cassa con tutti quelli che ha venduti, mi è ammesso, e sta scritto su ogni giornale stamattina, allora senza premi 122 milioni, con i premi 145 milioni. E adesso devi spendere, io è quello che noi diciamo, a oggi qualche perplessità l'abbiamo, ma non perché non dovesse essere venduto ad esempio un grande, l'avevamo capito, ma magari due o tre. Il dubbio ci viene, grazie comunque Maurizio. Intanto dico a Beppe che lo prendiamo dopo il GR del DCC. Sono veramente molto orgoglioso di stare qua insieme a voi. Serzi. Allora, questo ascoltatore aveva perfettamente ragione. Ma di che? Aveva ragione, perché si parla di bonus. Sì. E io pure per la macchina, c'ho bonus e malus. Allora, per quanto riguarda le pagelle, che oggi ho voglia, sono vai veramente perché c'è il GR. Ma no, che GR? Che voto dai alla Juve? Allora, io direi innanzitutto che bisogna parlare di voti. No, ma allora particolarmente facciamo così. Dell'Udinese. L'Udinese ha fatto un grandissimo. Dai il voto all'Udinese. No, l'Udinese ha aggiunto proteine alla squadra con lasagna. Allora, e quindi darei un voto 9. Mi dispiace. Torniamo subito. Ripartiamo da Beppe, dalla provincia di Milano. 800 24 24. Adesso le prendiamo. Parliamo della VAR. Sappiate che la VAR non andrà ad eliminare tutti gli errori, lo diciamo prima, perché ci sarà anche degli errori dal punto di vista, voglio dire, strumentale, no? Perché niente è infallibile, però noi speriamo che siano ridotti quasi a zero. Però anche questo strumento, a chi pensa, dice, aspetta, tanto ora lo rivedono, non è detto, perché ci sono delle cose da fare, intervirà solo per fatti chiari, errori chiari. Tutti convocati. Ci sono amici che chiedono solo amore. Non parlano, ma si fanno capire. Ci stanno vicini sulle loro quattro zampe. Sono i nostri cani e gatti. Amici veri, amici speciali. Ogni domenica alle 13 scopri con Coop come noi italiani ci prendiamo cura di loro e come loro rendono la nostra vita migliore. Vai su radio24.it nella sezione Amici Speciali Tour per scoprire racconti e testimonianze di chi possiede un amico speciale. Life is better with friends. Da 10 anni InfoCert significa innovazione e trasformazione digitale per professionisti, PMI, grandi aziende, banche e pubbliche amministrazioni. La fiducia di oltre 1,5 milioni di clienti è per noi il miglior regalo di compleanno. Noi continueremo a dedicarci all'innovazione e alla sicurezza del loro business. Buon compleanno InfoCert, buon compleanno futuro. Vai su infocert.it e scopri quello che possiamo fare per te. InfoCert, gruppo Tecno Investimenti. Un'altra sfida vinta, capo. Grazie a Peugeot Partner, primi nella consegna dei 5 quintali di rododendri per il matrimonio. E abbiamo portato anche lo sposo. Non si sa mai. Veicoli commerciali Peugeot. Oggi più vincenti che mai con i Champions Days. Peugeot Partner con motore Blue HD, 75 cavalli, 3,3 metri cubi, clima e radio a 9.900 euro. Approfitta dei vantaggi imperdibili su veicoli commerciali Peugeot, ma solo a luglio. Peugeot. Offerta valida per veicoli in pronta consegna con immatricolazioni entro il 31 luglio con permuto rottamazione. Info su peugeotprofessional.it. Alla fine che vino hai ordinato? Questo rosso, mi sembrava di buon livello. Ma perché vuoi fare tutto da solo? Senza offesa, chiamo il sommelier. Dare valore alla propria vita significa scegliere il meglio, anche nel mondo della finanza. Per questo è importante farsi affiancare da un consulente finanziario capace di realizzare con te i progetti di investimento migliori per le tue esigenze. Un professionista attestato dall'iscrizione all'albo OCF, organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Tutti convocati. From my side, the video assistant refereeing has been a great success as well here in Russia at the Confederations Cup. It has been a great success because in many occasions the video assistant referees had the chance to intervene, to help, to assist the referee. I fully share the opinion of the of the FIFA president in terms of positive outcome so far. We are very happy of the result we had, without forgetting that we are in a sort of work in progress. Sappiate che la VAR non andrà ad eliminare tutti gli errori, lo diciamo prima, perché ci sarà anche degli errori dal punto di vista, voglio dire, strumentale, no? Perché niente è infallibile, però noi speriamo che siano ridotti quasi a zero. Però anche questo strumento, a chi pensa, dice, aspetta, tanto ora lo rivedono, non è detto, perché ci sono delle cose da fare, intervirà solo per fatti chiari, errori chiari. È stata anche un po' di enfasi, l'avete sentita, le voci erano di Infantino, Collina e l'ultima era quella di Nicchi. Abbiamo fatto la storia del calcio, ha detto il presidente della FIFA Infantino, 6 episodi nella Confederation Cup, 6 gravi errori evitati grazie all'utilizzo della VAR. Oggi sono evitati 7 perché c'è stato un calcio di rigore per il Portogallo che poi tra l'altro André Silva, prossimo attaccante del Milan, ha sbagliato, rigore che si poteva vedere anche da Marte probabilmente, però insomma è servita la VAR, tra l'altro con cartellino giallo e non rosso e quindi altre polemiche perché si trattava di un fallo a mio parere su occasione da rete abbastanza chiara. Questo per dire che l'anno prossimo ci divertiremo. 800 24 00 24, chiamate, siamo ancora insieme per un'ora. Luca Marelli, ciao. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo fatto la storia o siamo sulla strada? Sarà bello all'inizio capire un po' come funzionerà. Aspetta che recuperiamo meglio il collegamento telefonico, richiamiamo Luca Marelli. Io ho l'impressione che andrà veramente spiegata benissimo nei prossimi 2-3 mesi. Sì, perché l'aspettativa perché è alta. L'aspettativa è alta, si tratta di fissare paletti, parametri, perché adesso, sai, la stragrande maggioranza della gente che segue il calcio si aspetta la moviola in campo. Bisogna chiarire perfettamente ed esattamente che cosa accadrà, il che non sarà un lavoro semplicissimo, secondo me. No, non sarà un lavoro semplicissimo, e la moviola in campo, che certamente limiterà gli errori e toglierà quelli più clamorosi, toglierà però anche l'alibi della buona fede, nel senso che sarà è già difficile accettare l'errore dell'arbitro in campo. E sarà più difficile accettare l'eventuale errore o la differenza di modo di applicare la VAR da parte di quelli che stanno davanti allo schermo. Certo, si tratterà esattamente di capire come funziona, di spiegarlo ai telespettatori, ripeto, di fissare dei paletti precisi, e poi tutti quanti noi dovremo, telespettatori compresi, dovremo abituarci a questa grande novità. Sì, grande novità che abbiamo visto in questa Confederations Cup, che vedremo a partire dal prossimo campionato anche in Serie A, funziona, con no? La sparizione dei giudici di porta, secondo me funziona, a patto, ripeto, che sia spiegata bene, che si spieghi ad esempio alle persone a casa davanti al televisore o allo stadio che non potrà intervenire in tutti i casi, non potrà cancellare tutte le ingiustizie vere o presunte. Abbiamo ritrovato Luca Marelli. Luca, allora, mi sentite meglio? Adesso decisamente meglio. Abbiamo fatto la storia o siamo sulla strada per farla? Sì, diciamo che la Confederation Cup secondo me non è stato un successo, ma è stato una gran confusione, ma non dovuto allo strumento, ma alla qualità degli arbitri. Secondo me è stato molto importante l'introduzione, ma dovrà essere regolamentata meglio, utilizzata meglio. Noi abbiamo avuto in Italia la sperimentazione nella fase finale della primavera, e non ci sono stati errori, perché i nostri arbitri sono migliori. Cioè, se un arbitro è scarso, resta scarso anche davanti allo schermo. Questo secondo è la sintesi. Secondo me un arbitro scarso diventa più scarso. L'abbiamo visto nella semifinale, con un arbitro iraniano, francamente non all'altezza, che non è riuscito ad assegnare un rigore netto al Messico, al Cile, per un rigore veramente evidente. Sì, c'è un problema. Io ho visto quell'immagine, l'hanno vista in tanti, e ho provato a calarmi in una sfida magari del prossimo campionato, una sfida di altissimo livello, Juventus-Inter, Roma-Juve, Milan-Inter, sceglietela voi. diventa poi difficile spiegarlo se dovesse accadere alla gente a casa. Bisogna farlo prima, Giovanni, cioè dovranno esserci programmi, sperimentazioni, insomma bisognerà studiare qualcosa per far capire alle persone, la grande maggioranza del pubblico, di che cosa stiamo parlando, che cosa accadrà su un campo di calcio di Serie A dall'anno prossimo. Quindi, ad esempio questa cosa che è stata evocata molto in questi giorni, cioè per cambiare una decisione serve che ci sia l'assoluta chiarezza e certezza, il che significa che magari si possono non cambiare in occasione, Luca, di azioni che possono parere chiare e che magari tecnicamente non lo sono. Io ho una sensazione che anche Nicky non abbia le idee chiare. Questo è un po' un problema, Sì, più che no, ma il problema è che la comunicazione dell'AIA su quella che sarà l'utilizzo della VAR non è di primo livello e forse neanche di secondo. In realtà stiamo andando verso un utilizzo senza sapere esattamente che cosa stiamo per affrontare. Cioè, lo sappiamo magari noi che siamo fuori, qualcuno di noi che è fuori dall'ambiente arbitrale, però non riusciamo a spiegarlo perché siamo in pochi. Sarà un gran casino, sarà. Io ho paura che sarà un gran casino. L'inizio sicuramente sì. Perché ci sarà una gran confusione sul metodo di utilizzo, perché io ho sentito troppo spesso il presidente dell'AIA affermare che la VAR verrà utilizzata solamente in casi eccezionali. La realtà è che lo strumento è molto valido, però limitarlo in questa maniera rischia di essere uno strumento in più, ma non decisivo, mentre invece dobbiamo pensare che questo strumento modificherà del tutto il metodo di arbitraggio. Perché altrimenti, se vogliamo mantenere, se l'AIA vuole mantenere il ruolo centrale dell'arbitro, pensare che il calcio non cambi con l'utilizzo dello strumento elettronico, esatto, allora vuol dire che proprio non ha capito. Allora perdonatemi, lo chiedo a te, a Giovanni, che è molto esperto di queste cose. Codificare quali sono questi casi eccezionali, ma codificare. Ma i casi sono già codificati. Esatto. Io credo che il tema sia un altro: è che l'aspettativa sarà punita. Faccio un esempio, una gomitata con un'espulsione, cosa che abbiamo visto ad esempio negli scorsi mesi. L'aspettativa dei tifosi legittima è che si vada a cercare tutti gli episodi simili e a quel punto senza più l'alibi che si decide in un secondo, ma con la necessità che ci sia uniformità di giudizio, che è quella cosa che nell'arbitraggio in campo manca, ma che tu davanti allo schermo ti aspetti che ci sia. Andiamo avanti a parlarne, abbiamo un minuto di traffico, ci teniamo Luca Marelli, traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presento. Tutti convocati. Allora, di nuovo insieme. Mauro manda un sms per chiedere se non conveniva prima provare in Coppa Italia, in Serie B per un paio di anni. La sperimentazione è stata fatta, poi si deve partire. Se lo strumento è lì, si deve partire. Poi c'è chi dice magari con la VAR si potranno correggere decisioni incomprensibili come lotto di mercato alla Juventus. Adesso lo riguardiamo alla VAR e poi lo correggiamo. A proposito, aspettiamo ancora i vostri voti. 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19. Luca Marelli, secondo te la VAR toglierà o metterà pressione agli arbitri? No, la toglierà, questo sicuro, perché in mano a mani capaci come sono quelle dei nostri arbitri, per quanto non sia un livello qualificabile a quello 10 anni fa, comunque sarà uno strumento utile, perché verranno utilizzati in circostanze chiare, palesi, ma non pensiamo, come ha detto Niki, che potremo eliminare tutti gli errori, perché questo non succederà, perché come hai detto bene tu prima, precedenza, c'è il metodo di giudizio dell'arbitro. Il metodo di giudizio di un arbitro cambia comunque, non possiamo pensare che possano essere dei robot che decidono tutti alla stessa maniera. Sì, cambia anche davanti al televisore, anche per i VAR cambia anche il metodo di giudizio. davanti al televisore, quindi noi non smetteremo di parlare dell'uniformità, che è quella cosa su cui spesso si discute quando si parla di temi arbitrali. Tu sai benissimo quello che penso, sì, e ho detto più volte. Secondo me le polemiche per quanto riguarda la moviola e gli episodi aumenteranno, non diminuiranno di certo, perché si cambierà il metro. Il metro sarà quello che verrà utilizzato di più, la teoria della malafede. Diventeranno più cattive le polemiche. Magari caleranno numericamente, ma diventeranno, esatto, più cattive. Esatto. Su questo sono abbastanza convinto. Dal 20 agosto ci metteremo l'elmetto. Grazie Luca Marelli. Grazie a voi. Luca. Grazie Luca, quindi un cordiale saluto, quindi un cordiale saluto dal vostro, sì, senatore Maurizio Gasparri, che voi naturalmente non avete invitato, no, ma non mi sorprendo. No, ma non lo facciamo ancora mai, una volta, ancora una volta voi siete stati condizionati da oscure trame di palazzo contro la Roma. No, e a favore, dato 4 e 5. E a favore, appunto, avete dato 4 e 5, mi sembrano assolutamente che delle cose fuori concorso. Fuori. Assolutamente, la Roma ha acquistato Karsdorp, mi dicono essere la stella sulla fascia destra. Poi hanno acquistato questo figlio dell'arbitro Moreno, che mi sembra uno che fa la differenza, no, in tutti i sensi. Non è così. E quindi non mi sembra il caso che voi diate un 4, un 5. Che voto possiamo dare? Ma non Roma. È questione di voti, è questione di. No, ma diamo fatto un voto, noi stiamo chiedendo i voti. Il vostro è un voto filosovietico. Sì. E siamo sempre al punto di partenza, che contro la Roma si scatenano puntualmente tutti. E a questo punto, guarda, anche Genta, in questo momento, vabbè, allora, lo vedi proprio che, col coltello. Che voto lo diamo? Allora? Beh, mi direi che è stato un ottimo calciomercato fino a questo punto, sì, tenendo conto che la Roma farà un numero. No, questo mi è sembrato leggermente, come dire, allora aspetta, visto che l'uno ce lo dà, nei nostri c'è confronti. Beppe dalla provincia di Milano, ecco, bravo, 800 24 Beppe è sicuramente 24. Un romanista, sì, vai Beppe, digliele, so. Beppe, eccoci qua, forza Beppe, vai Beppe, spaventato, che andò andato, pronto? Sì, pronto, eccoci, sì, qua, sei romanista, Milano, no, Milano non Napoli, però uguale, Milano, sì, ho sbagliato a dire, chiedo scusa, uguale neanche tanto, no, parlando di Napoli faccio i complimenti a Napoli perché ha mantenuto l'assetto dell'anno scorso, quindi secondo me sta facendo un ottimo mercato. Poi sul mercato, io sono interista, sul, sì, mercato del Milan abbiamo già visto oggi il rigore sbagliato dal primo acquisto forte, sì, del Milan, un ottimo centravanti. Vabbè, non è che me lo puoi giudicare per un calcio di rigore sbagliato in Confederations Cup, nemmeno De Gregori. Non mi sembra che però in Portogallo abbia fatto tanti gol. Ha fatto, guarda, te li dico io, ha fatto 30 gol negli ultimi due campionati, tirando anche calci di rigore, meglio evidentemente di come l'ha fatto oggi. Vabbè, ma sono contento. Ne ha fatti 14 e 16, no? Io adesso faccio il cronista in questo caso. No, ma per me va benissimo perché saremo sopra il mio sicuro, anche se questo non porterà a vincere il campionato. Invece sull'Inter non ho capito il mercato. Ma il mercato comincia domani, il mercato, no, dell'Inter. Sì, però mi sembra, sì, che sui terzini è un po' latitante. Ecco, secondo, sono d'accordo su questo. Cronicamente possiamo aggiungere. Però dovrà fare qualcosa perché era uno dei punti deboli dell'ultima stagione. Ultima stagione? Delle ultime N stagioni. Molte stagioni che siamo latitanti in quel ruolo. E mi sembra dai giornali o comunque dalle radio, televisione, che non ci siano delle prospettive di giocatori in quel ruolo. No, penso io sono convinto invece che almeno a sinistra arriverà uno che per fare il titolare. E su questo sono abbastanza convinto perché all'Inter sanno benissimo che esiste anche questo tipo di esigenza. Sì, buonasera. Perdonatemi. Permettetemi di confermare il mio senza voto all'Inter. Se vogliamo parlare di voti, Giovanni. Aspetta Beppe, aspetta lì. No, io scusate, sì, ma devo intervenire perché ho sentito da questo gentile ascoltatore delle palesi inesattezze, sì, anche perché André Silva ha tirato un rigore molto coeso, molto positivo, male e ha sbagliato. Ha tirato molto bene, poi bisogna anche tener conto che ci sono portieri, magari sono ma anche portieri. Ma riusciamo ad ospitare uno che ci dà un voto? Il voto del mercato del Milan. Allora, il calciomercato del Milan ha un 10 più. Sì, è stato bravo Gagliani, no? E posso assicurare, che il Milan farà sicuramente un ulteriore passo avanti e credo che quest'anno sicuramente saremo a livello delle più forti. Lo siamo visto, già. Beppe, no, hai sentito il nostro, ma chiaramente Beppe è interista, ma ci sentiremo poi a maggio. Sì. Noi torniamo il 20 agosto, la domenica. Vieni a trovarmi. No, anzi, forse non l'avevamo ancora detto, giusto? E poi se mi concedete una battuta. Dai, che c'è Novellino che ci ascolta. Forza. Veramente una battuta sulla VAR. Basta concentrarsi sulle partite della Juve. E così possono fare. Battuta maliziosa. Ciao, Beppe. Ciao. Così già sono arrabbiati gli juventini per il 5 in pagella. Saluto Walter Novellino. Ciao Walter. Ciao, come state? Bene, tu? Come vedi, poi con la domenica, io con oggi andiamo in vacanza. E veniamo anche noi la domenica prossima. Cioè, noi siamo a Milano via Monterosa invece. Beato, via Monterosa. Che culo, Walter. È bella, senti Walter, io sono al mare a San Benedetto, sto benissimo. San Benedetto è un bellissimo posto, ci sono stato per anni quando ero bambino. Sisti. Io sono un bambino ancora. Allora, ci dai la palma del migliore. Grande. Ci dai la palma del migliore e il tapiro del peggiore di questo primo mese di non mercato, perché gli amici da casa notarili ci dicono che il mercato ufficiale non ancora iniziato, però la verità è che tutti, in tanti, hanno fatto tante cose. Allora, il migliore, la squadra migliore che si è mossa meglio è quella che fin qui ha fatto peggio secondo te? La squadra migliore secondo me che ha fatto il migliore acquisto è stato l'Inter, che ha preso Walter Sabatini, che lui sicuramente non è uno stupido, sicuramente sarà e sta facendo delle cose buone. E poi oggi tra l'altro l'Inter ha annunciato anche il vice direttore sportivo Dario Baccin, che viene dal Palermo. Viene dal Baccin, è molto che bravo. Tu credo conosci perché, bene. Sì, è per poco tempo. Però. Ma non sono un po' in tanti Sabatini, Ausilio e anche un vice direttore sportivo che poi è un personaggio comunque importante come Baccin? Ma lì ognuno ha un compito buono, molto specifico. Walter coordina un attimino tutti. E sono convinto che Ausilio è bravissimo, anche se non è stato fortunato in questi ultimi anni. Però Baccin è molto bravo nel settore giovanile, io l'ho conosciuto, è molto bravo. E Walter è quello che, secondo il mio punto di vista, è il... Ti mette il cappello su tutto. Sì. Invece il peggiore a chi lo dai? La palma del peggiore. La palma del peggiore chi la do? La Fiorentina? Non ha fatto niente. Secondo me hanno ragione i tifosi a essere un po' arrabbiati. È vero che c'è la questione societaria, però sembra un po' una scusa per smobilitare. Volevo dire questo, non lo so, ecco la Fiorentina che non ha fatto niente. Beh, a Roma? La Roma ha venduto Rudiger anche. La Roma sta vendendo tutti, però ho letto che questo grande direttore sportivo ha detto l'importante è saper vendere, perché comprare è facile, speriamo che sia così. Insomma, speriamo che la Roma, la Lazio che non si sta muovendo, sta ferma anche lei. Però la Juventus, anche lei, però credo che il Milan e l'Inter sono quelle due, le nostre Milano, no? Perché Milano è Gran Milano, no? Sì. Stanno diventando almeno. Sono anche quelle che avevano più bisogno, diciamo la verità, esatto, che hanno più bisogno. Ci chiedono un voto all'Atalanta e al Torino. Il mio voto all'Atalanta è un 5,5, no? Al mercato, al primo mese di mercato. All'Atalanta in assoluto sì. Però insomma, se tu vai a fare l'Europa League, vediamo se tratterranno il Gomez, se riusciranno a non rimandare Spinazzola, però non ti puoi presentare con mezza squadra venduta. Sì, non, secondo me hai ragione, insomma, non stanno... Però non, io credo che la società Piercassi non è uno stupido, è una persona molto intelligente, tutt'altro. È una persona che dove lui fa riesce sempre tutto, insomma, io lo conosco e... È una persona in gamba su questo. Poi il Torino ancora non ha fatto niente, mi sembra che ha preso Sirigu e basta. Sì, Torino non ha ancora capito se resterà o no Belotti, credo. Ma non penso di sì, dai. Anch'io no, credo, penso di sì. Credo che di sì. Se no succede la fine del mondo, insomma. No, se no incassano 100 milioni, non è la fine del mondo. No, non so se incassano, Io non credo che lo vendano, insomma. Poi devono spenderli poi, Lo so, ma intanto se riescono a vendere per quella cifra poi si possono fare tante cose. Sì, esatto. Pensi anche tu che il Milan sta per cambiare modulo? Ecco, ho letto anche questo, 3-5-2 è un gioco dove direi che a Firenze Montella l'ha fatto molto tu bene. Tu pensi il 3-5-2? Ma poi diventerà un 3-4-3, insomma, poi gli esterni vengono dentro, gli esterni davanti, poi, insomma, È un gioco che a me piace, perché credo che lui l'abbia fatto molto bene alla Fiorentina. Con la Fiorentina è partito con 4-3-3, poi alla fine l'ultimo anno aveva fatto un grandissimo campionato col 3-5-2. Io penso, non lo so se riesce a far capire ai giocatori che è un gioco, poi al di là dei numeri sono importanti i giocatori, ecco. Sì, io credo che il fatto di rischiare di perdere Suso si possa spiegare solo così, cioè con l'idea che ci sia un cambio di modulo che è stato deciso e pianificato prima dell'apertura del mercato. Leggo un messaggio di un amico che non si firma: la Fiorentina ha sostituito Sosa con Pioli, già per questo merita 10. Io però mi metto, Walter, nei panni di Pioli. Cosa pensa un allenatore quando arriva in una piazza importante come Firenze e si trova in mezzo alla tempesta perfetta? E lui non vorrebbe starci in questa tempesta, perché già è uscito da una tempesta, quella dell'Inter, insomma. Io sono convinto però che Corvino non è l'ultimo arrivato, non convinto che anche Della Valle vogliono fare. Tu pensi che resteranno? Sì, penso di sì, perché d'altronde non chi la prende la Fiorentina, insomma. È diventato molto difficile in questo momento tirare fuori tutti quei soldi che vogliono, insomma. Io credo che alla fine loro cercheranno di accontentare l'allenatore, perché Pioli ha bisogno di fare un anno molto, molto più sereno che quello con l'Inter, credo. Insomma. Ha bisogno di serenità. Diventato difficile prendere una squadra di calcio, quindi a te non sorprende che Baccaglini non abbia preso il Palermo? Ah no, quello non mi sorprende niente. A te Zampa è un grande, però riesce. Viene un po' il sospetto che fosse una... Però io non lo so. Una muina. È una muina, ma non lo so. No. Io però conoscendo Zamparini, allora in questo momento vuole le dimissioni del presidente. Adesso oggi leggevo che si riuniscono di nuovo per il club. Non lo so, però... Ma chi lo sa, ma chi può saperlo? Ma io vorrei che non si prendesse tanto in giro la gente a Palermo. Ecco. Sì, che ci fossero le idee chiare su cosa è successo, soprattutto su cosa succederà, ha detto Zamparini, che è pronto a fare una squadra che possa tornare in fretta in Serie A. Noi ce lo auguriamo, perché una piazza come Palermo deve stare in Serie A. Va bene, grazie Walter, ti lasciamo al mare di San Benedetto. Un abbraccio, ciao. Buone vacanze allora per la vostra, non so dove andate la prossima. Ma che c'è mai in vacanza? Noi andiamo in vacanza, ma solo la domenica, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30 siamo inchiodati qua. E ci restiamo vicino, per tutta l'estate. È Piazza Babila, via Monterosa. Andiamo a fare un aperitivo di vacanza. Via Monterosa è vicino comunque, dai. Sì, ci si arriva con la metropolitana. È vicino a San Siro. È vicino a San Siro. Siamo vicini alla Scala del Calcio. Assolutamente. Grazie Walter. Ciao Walter. Grazie Walter Novino. Solo Claudia Schiattone va in vacanza. Mi sono stupito nel sentire queste polemiche sulla Fiorentina. Perché abbiamo i nostri tre pilastri che sono stati ampiamente confermati: Borja Valero, no. Bernardeschi e Kalinic saranno la struttura portante della prossima Fiorentina. Sì. E tu, Genta, mi insegni che Victor Hugo è un grandissimo difensore. No, l'abbiamo Hugo preso, lo vedremo, l'abbiamo cercare, preso noi insieme a questo Gaspar, che mi sembra una delle migliori promesse sulla destra. Va bene. Quindi noi siamo assolutamente tranquilli. Riusciamo ad avere allora un voto ragionato a questo primo mese di mercato. Beh, chiedetemi, posso dire... No, Giancarlo Antonio, un voto per la Fiorentina, poi abbiamo la pubblicità. La Fiorentina, sì, direi con estrema tranquillità 8. 8 e mezzo. Quindi sbagliano 10. I tifosi che se la sono in 9 un po' settimane prese. E mezzo staremo già a posto, no. Tranquillamente. Vabbè, torniamo subito, dai. Siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Bravissimo ancora Llorente, andare a chiudere la giocata. Però si togliono col colpo di testa di Weiser e si riscatta. Gelando Kepa. possibilità per la Germania che passa subito in vantaggio. Lars Stindl, 1-0 al quinto. And now you saw. Allora, rieccoci, 800-24-0024, questa che è stata anche la grande settimana della Germania, che ha vinto l'Europeo Under 21 a sorpresa, perché tutti eravamo convinti lo vincesse la Spagna. Com'è quella famosa perché frase? Perché la Germania l'abbiamo battuta noi, e quindi... Mi ricordi quella famosa frase? La famosa frase è quella che sì, il calcio sono 22 uomini in calzoncini che corrono dietro un pallone e alla fine... Vince la Germania. Vince la Germania, che forse vincerà anche questa sera, finale, ore 20, della Confederations Cup contro il Cile. E abbiamo convocato allora chi meglio di tutti noi può conoscere il modello tedesco, ovvero Pietro Nicolò, di collega di Fox. Ciao Pietro. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Perché vincono sempre loro? Sono abbastanza organizzati, quello è sicuro, è un momento molto buono, oddio, sono andati bene anche quando non erano nei buoni momenti, è proprio una tradizione, insomma, di arrivare bene o male fino in fondo alle manifestazioni, poi vincere dipende sempre da, anche da piccoli episodi. In ogni caso è un buon momento, hanno tantissimi giocatori di qualità e lo dimostra il fatto, insomma, che ha vinto la nazionale Under 21 B. Sì, appunto, è stato uno schiaffone questo, no? Questo... per tutti noi. Ma poi questo si diceva, che una Germania che è più debole perché i più forti sono stati cooptati dalla nazionale maggiore, dunque non è tra le favoritissime, si dicevano tutte queste storie, invece poi alla fine vale la frase di questo. È che sono tanti buoni, lo notavo anche da chi usciva dalla panchina, perché di solito chi esce dalla panchina è uno che magari non è mai visto in campionato o ha poca esperienza, invece usciva dalla gente che ha già giocato in Champions League, in Europa League, in Bundesliga a livelli importanti, che magari ha già anche giocato in nazionale, insomma, li hanno un po' meno paura di lanciare i giovani. Quando uno è buono anche a 17 anni non è che si stiano a fare troppi problemi, lo prendono e certo. Lo buttano in prima squadra. Però questo valeva un po' anche per noi, è stato un po' il filo conduttore di questo campionato Under 21, di cui si diceva la Spagna è la grande favorita, giocatori che hanno giovani ma che hanno grande esperienza anche internazionale, no Giovanni? Dicevamo sì, tutto questo. Però per la prima volta arrivavamo con le famose 1000 presenze in Serie A, bravo. La rosa, cosa che non si è vista negli ultimi periodi della nostra Under 21. Poi arrivano i tedeschi, si portano i panchinari e la portano a casa loro. E io ho goduto abbastanza, posso dirti. Beh, abbastanza divertente. La cosa più bella in assoluto è che in nessuna delle due squadre che sta giocando in questo momento c'è il più forte Under 21, probabilmente, secondo me, che è Leroy Sané, che è già ritenuto troppo più forte sia per la sperimentale che per l'Under 21 e l'hanno fatto riposare, insomma, perché è già pronto per la Nazionale A, insomma. Quindi gli fa capire che, insomma, hanno parecchio materiale su cui lavorare. Ma tu immagini di vederne qualcuno di quelli che abbiamo visto all'Europeo l'anno prossimo al Mondiale? Qualcuno, intendo vederlo, con un ruolo importante da titolare. Ma forse Gnabry può andare a fare la riserva, ma... Cioè, quindi di quel gruppo lì, nei 23, tanti, ne vediamo forse uno. Che può andare a fare il panchinaro. Forse un paio d'altri come difensori, come centrocampisti, ma non penso da protagonisti. Quelli forti sono tutti a giocare a Confederation Cup, insomma. Mm. Sì, tutto questo Goresca in testa, insomma. Certo, tutto questo smentendo quella che è una leggenda metropolitana, e cioè che se il campionato non è allenante è difficile avere delle nazionali forti oltre che delle squadre forti in Europa. La Bundesliga la vince sempre il Bayern di Monaco, quindi sì. Presumiamo che non sia allenante al massimo, eppure loro in Europa hanno il Bayern di Monaco e poco altro, mentre il Dortmund non è malaccio, sì, no, sì, non è malaccio, però diciamo gli manca tutto il secondo livello, un po' come manca a noi del resto. Sì, è vero. Non ce ne sono. E invece a livello di nazionale sono capaci di produrre tutto quello che stiamo vedendo. Guarda, io ho sempre creduto fosse una mezza bugia o forse una bugia intera questa storia del campionato allenante o non allenante. Non penso che la dimensione di una nazionale la misuri o delle squadre in Europa la misuri dal fatto che una vinca sempre per definizione il titolo. Cioè, mi anche sembra che quella che la vince è una squadra spaventosamente forte, insomma. Appunto, che è una corazzata in uno stagno, come accade in Italia con la Juventus, come accade in quest'anno in Francia col Paris Saint Germain un po' meno, ma normalmente è così. Quindi questa cosa del campionato allenante secondo me vale fino a un certo punto. Sì, però io voglio lanciare questa provocazione e lo chiedo a Pietro Nicolodi, cioè noi ci stiamo già avvicinando in questo al modello tedesco, perché se in campionato tu sai che si gioca dal secondo posto in giù, magari è più facile anche per tante squadre dare spazio ai 17enni, ai 18enni e fargli fare esperienza prima. Questo credo sia una questione di cultura, di cultura calcistica, intendo. Pietro? Sì, devo dire che comunque qualcosa è successo negli ultimi tempi. Siamo arrivati ad avere delle under 21 che erano veramente difficili da riconoscere, perché non sapevi chi fossero i giocatori. Quest'anno c'erano tanti giocatori che abbiamo visto, conosciuto, e sono stati protagonisti. Questo secondo me è già un buon passo, mi sembra che si stia facendo abbastanza bene. Poi anche contro la Spagna non ha giocato malissimo l'Italia, ha avuto quell'episodio dell'espulsione che ha chiaramente condizionato la partita, però insomma primo tempo teneva piuttosto a me è piaciuta l'Italia al primo tempo. No, ma hai ragione, infatti non a caso è stato un under 21 anche televisivamente seguita come mai era successo questa. Ecco, per esempio in Germania l'under 21 durante l'anno va quasi sempre su canali secondari, quest'anno hanno trasmesso l'evento, le due reti principali statali, e hanno fatto un successo di pubblico che non mi ricordo che sia mai capitato in tutta la storia del calcio tedesco. Ma di solito l'Under 21 non è che sia particolarmente seguita, invece quest'anno aveva un grande seguito anche quella, e anche la Confederation Cup, che è partita molto timida, diciamo così, ha dei numeri piuttosto importanti. Senti, ma posso fare una domanda al mio compagno di banco, Giovanni Capuano? Ma tu non hai goduto un po' per la vittoria della Germania sulla Spagna? Beh, insomma, Spagna presuntuosetta, grandi favoriti, grandi talenti. La Spagna era un po' presuntuosa, ma mi ha fatto impazzire il giorno dopo il titolo di uno dei grandi giornali, credo Marca, che ha detto per consolarsi vinceranno il mondiale. Magari fra 5 anni. Loro sono fatti così. Siamo belli, bravi ma credo sia anche la loro forza, come la forza della Germania, ha ragione Pietro Nicolodi, invece è l'organizzazione, le nazionali tedesche tutte, dall'Under 21 a quella maggiore, sono fatte con lo stampino. C'è una favorita tra Cile e Germania questa sera, finale ore 20 della Confederation Cup, diretta su Sky? Guarda, hanno già giocato, come ben sapete, ha giocato meglio il Cile secondo me in quella partita, sarà finita 1-1. Di solito la Germania gioca bene la seconda partita contro la stessa avversaria, quindi mi attendo qualcosina di più. Poi sul risultato, francamente, saranno chiaramente episodi ad incidere, quindi non mi interessa di più vedere come giocano, soprattutto questi nuovi giocatori della Germania, più che il risultato. Voglio vedere la personalità, fin dove arrivano. Sbaglio, c'è questa cosa che chi vince la Confederations non vince il mondiale? Porta una ghiella terrificante. Anche se, come diceva giustamente Birov, tutto sommato, ma lui, l'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale l'abbiamo vinto in Sud America e non l'aveva mai vinto nessuno di europeo. E quindi... Vabbè, possiamo contro la Cabala non ce la fanno nemmeno i tedeschi. Interessiamo relativamente. Interessa vedere il tipo di personalità, perché secondo me Goretzka è un giocatore spaventoso. Ha la sfortuna di giocare nello Schalke, che insomma è una squadra che costruisce e distrugge nel giro di 20 minuti all'interno della stessa partita, e quindi non è neanche tanto facile valutarlo quando gioca lì. E penso che sia veramente un fuoriclasse. L'unico problema grosso, secondo me, è che sa di essere fortissimo e a volte si piace in una maniera mostruosa qua la spagnola. Lo spagnolo. Senti, andiamo al domandone. Quindi voglio vedere se è in grado di giocare una grande partita da protagonista quando comincia a avere tutti gli occhi del mondo su di sé dopo i due gol realizzati. Andiamo al domandone. Allora, domandone lo facciamo perché intanto gli amici da casa ci stanno mandando. Lo diamo per l'ultima volta. Allora, 349-238-6666 se volete scrivere sms, whatsapp, oppure via Twitter, oppure sulla pagina Facebook Tutti Convocati trattino Radio 24, Massimo, sotto il video delle nostre pagelle che sta spopolando. Quindi mandateci anche le vostre pagelle del primo mese di calciomercato. Ma la domandona che oggi si fa i tifosi del Milan e non solo, e Pietro Nicolodi è la persona giusta per darci questo giudizio, è: ma Çalhanoğlu è o no un uomo che cambierà la storia del Milan, storia recente? Forse la cambierà. Sicuramente è un bel giocatore, questo posso garantire, nel senso che ha tantissime qualità, un piede destro che è qualcosa di fantastico, ti trova a 80 metri con una tranquillità spaventosa, ha anche un tiro micidiale, i calci da fermo, comincia a essere pericoloso dai 40 metri, nel senso che anche se non tira in porta fa dei passaggi pazzeschi per la testa dei compagni. E devo dire che la considerazione di Çalhanoğlu è cresciuta grazie alla sua squalifica, nel senso che i 4 mesi in cui non ha giocato all'Leverkusen, l'Leverkusen è crollato in maniera mostruosa, quindi vuol dire che il suo impatto sulla squadra era molto forte, evidentemente, quindi secondo me è un bel colpo. Ma tu come lo vedi, trequartista esterno? Guarda, può giocare un po' dappertutto. Sì, può giocare, ma secondo te per cosa l'hanno preso? Per cosa l'hanno preso? Appunto, perché così potrebbe essere anche quello che è al posto di Biglia, se non arriva, come lo stai descrivendo. Sì, volendo, sì, anche se secondo me io lo terrei più vicino alla zona offensiva, insomma, nel senso che uno che ha i numeri per fare anche parecchi gol, insomma. Certo che anche nel 4-2-3-1 del Leverkusen, quando c'era Schmidt allenatore, dove tutti pensavano solo e esclusivamente a giocare in attacco, mettiamola subito chiara la cosa, era piuttosto divertente. Però comunque un giocatore capace, con un piede... Lui gioca dietro la punta. No, lui è un trequartista. Allora può fare anche il trequartista. Io l'ho visto fare il 10 puro, no? Dei vecchi tempi, all'inizio della carriera, e lo faceva piuttosto bene, insomma. Io torno a quello che dicevamo prima, secondo me il Milan cambia pelle tattica. Questo è l'interrogativo, perché il Milan normalmente non gioca col trequartista. Me la ripeto, può giocare anche a sinistra, quindi insomma ha varie collocazioni di essere utilizzato. Poi ecco, l'unica cosa che proprio non è straordinaria, non è che sia proprio l'uomo più continuo del mondo, fa delle partite da fantascienza, delle altre dice dove diavolo era, però insomma non metti in conto, insomma, un giocatore di talento e con un colpo solo magari nella partita non fa niente, risolve, è decisivo, insomma, che non è male come. E poi a questa capacità sulle punizioni, abbiamo letto oggi le classifiche, nelle ultime 3 stagioni solo Messi e Pjanic ci hanno fatto più gol su punizione di Çalhanoğlu. Vedremo, Milan non ce l'aveva dall'epoca di Pirlo, uno dei migliori stoccatori sulle punizioni in rosa. Grazie Pietro, buon lavoro. Pietro, grazie a voi. Ciao Pietro. Allora lo ricordiamo, ore 20 Cile Germania. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Ancora meno di 5 minuti, Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buonasera. Allora, riassunto di cosa è successo nella seconda tappa del Tour de France da Düsseldorf a Liegi. Il riassunto è presto detto: una volata magistrale di Marcel Kittel, che sembrava spacciato perché è stata una volata molto convulsa, difficile, senza i cosiddetti treni, ha fatto tutto da solo e ha sprigionato una potenza, una forza senza pari. Secondo De Mar, sesto posto buono per Sonny Colbrelli, bresciano del team Bahrain, che ha provato ad anticipare la volata, undicesimo per uno ragazzo giovanissimo che fa il sesore del Tour de France, che si chiama Andrea Pasqualan. Brivido invece in questa tappa, che aveva veramente poco da dire, ma sta facendo la padrona la pioggia. Se al Giro d'Italia abbiamo corso al sole senza neanche uno scroscio di pioggia, in questo Tour invece abbiamo visto solo e soltanto pioggia. Pioggia ieri nel crono, che è costata carissimo a Valverde, a Izaguirre e anche a Dobridge, che si è ritirato oggi. E sempre per la pioggia, caduta tutto il giorno, caduta di una ventina di corridori a 28 km dal traguardo, tra questi anche due protagonisti e due uomini attesissimi per la vittoria finale, che sono Chris Froome e Romain Bardet. Per loro solo escoriazioni, delle botte, però sappiamo benissimo che quando si cade non è mai piacevole, quindi bisogna vedere come assorbiranno le botte. Sì, se avrà lasciato qualche segno. E in maglia gialla rimane Geraint Thomas. Esattamente, il compagno di squadra di Chris Froome, una Sky che sembra assolutamente padrona di questo Tour, però noi ci affidiamo al tempo, in questo caso proprio guardiamo il cielo e speriamo che cada giù un po' di pioggia per ravvivare una corsa che temo possa essere un po' troppo bloccata. Sì, è un po' come la Formula 1 e sì, la MotoGP, se piove si mischiano le carte e i rapporti di forza. Grazie Pier Augusto Staggi. Sì, anche solo che debba grazie succedere nel ciclismo. Ciao Pier. Sì, da, però insomma sta succedendo in questo Tour de France. Oh, ci fermiamo qui, eh. Io ringrazio Roberta Frisani e Pietro Lacorte che si sono alternati oggi in regia e poi tutti gli altri tecnici. È arrivato il momento dei saluti perché chiude questa che è, la, che è l'ultima puntata di questa stagione di Tutti Convocati Weekend alla domenica. Lo ripetiamo per l'ultima volta, torniamo il 20 agosto con l'inizio del campionato di calcio. Tutti Convocati domani ricomincia dal lunedì al venerdì. Sono restiamo commosso. Qui per tutta l'estate, siamo commossi anche noi. Allora ringrazio, abbiamo detto, tutti i tecnici che sono stati qui, ringraziamo Andro Mercù con le sue mille grazie voci. Grazie a voi, questa è la mia però. Questa è la voce, adesso che chicca, eh? La sua voce, Carlo Genta, Luigi Pardo, che anche lui troveremo all'inizio della prossima stagione. Ringraziamo Claudia Schiattone, autrice a domenica di Tutti i Convocati. Brava. Che sopporta, ci sopporta per tutte le domeniche, senza la quale tutto ciò che sentite in onda non sarebbe possibile, ma, esatto. Proprio, ma proprio tutto, eh. Tutto, tutto, tutto. Ciao ragazzi, ciao. Ci risentiamo il 20 ciao. Agosto e ciao domani dopo il GR delle 14. A Milano piove spumante, perché lo champagne è francese. Un matto gira in centro in mutande e uccidi i passanti con un macete. La politica ci vuole divisi, in TV sento parlare di ISIS. Su nel cielo guarda volano missili, fuori fighe da sfilate in dimissili. Droga gira in questi parti, unisciti. Ogni tanto vedi c'è chi collassa. Gli adulti che si fanno selfie in crisi, non trovano parole neanche per gli hashtag. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Saluti!